Enrichetta Caracciolo e la monacazione forzata, un abuso lungo 9 secoli. Nel nostro docuvideo sulle regine Sichelgaita di Salerno e Matilde di Canossa abbiamo raccontato che Sichelgaita ebbe tra le sue priorità quella di sostenere la riforma dei monasteri intrapresa da Gregorio VII e altri papi con lo scopo di arginare la decadenza morale nei chiostri. Di questa decadenza, che durò all'incirca 9 secoli, abbiamo testimonianze dirette attraverso gli scritti di alcune straordinarie donne che osarono denunciare la propria monacazione forzata, sostenendo che la causa della depravazione morale nei monasteri fosse dovuta alla mancanza di vocazione di fanciulle e giovani che vi venivano rinchiusi solo per questioni barbaramente patrimoniali, poiché le sostanze di famiglia, per non essere disperse, dovevano andare interamente al figlio maschio primogenito, come si sa. La medievalista Lucy Allen ha riportato alla conoscenza il lavoro della miniaturista Jeanne de Montbaston, che insieme al marito copista gestiva nel 1300 una libreria a Parigi, la quale produceva soprattutto copie del famigerato bestseller misogino maschilista Roman de la Rose, contro cui si scagliò la nostra madrina e maestra Christine de Pizan nel suo La città delle dame. Possiamo immaginare che Jeanne conobbe Christine e forse addirittura lavorò per lei nel suo atelier di scrittura. Il nome di Jeanne è legato alla serie di miniature spregiudicate ed eloquenti, ora conservate presso la Bibliothèque Nationale de France, che qua non possiamo mostrarvi perché verremo subito bloccate, ma che potete trovare sul nostro canale Telegram, riferite alle attività sessuali clandestine di monache e monaci protetti dal chiostro. L'albero dei falli, dal quale le industriose monache raccolgono i frutti, collocandoli ordinatamente nei propri cestini, la minuscola monaca che, come fosse un cane al guinzaglio, conduce un monaco tirandolo per il fallo legato ad una catena, e infine una inequivocabile immagine di accoppiamento tra un monaco e una suora. Il tutto miniato dalla stessa Jeanne de Montbaston in una copia del Roman de la Rose. Per Lucy Allen, la miniaturista, volle con queste immagini vendicarsi della misoginia del romanzo, creando vignette di monache spregiudicate che esercitano attraverso la sessualità un potere sui monaci. Ma, come scuola delle donne, ci chiediamo come avrebbe potuto Jeanne o chiunque altro anche solo immaginare delle situazioni così chiaramente scabrose e irrispettose verso i voti e la vita monastica se non ci fosse stata contezza di quel che succedeva nei monasteri. Naturalmente non giudichiamo le monache, le quali, come sappiamo dalle molte testimonianze, erano fanciulle senza alcuna vocazione che giovanissime venivano imprigionate a vita nella clausura monacale per negar loro la dote o per punirle di aver amato. Dunque, non riusciamo a trovare divertenti queste immagini che al contrario ci fanno riflettere e ci intristiscono, poiché pur nel loro modo estremo e sfacciato, svelano la realtà riguardo alla sessualità che si consumava dietro le sbarre claustrali dove si vivevano amori clandestini, il cui frutto veniva poi nascosto o soppresso, non vogliamo dire come. Nel 1500 Teresa de Avila creò il suo ordine delle Carmelitane Scalze in Spagna proprio per rispondere al decadimento morale nei monasteri, ripristinando l'osservanza dei voti di povertà e castità e proponendo che le monache uscissero dalla clausura per lavorare e portare aiuto alla gente povera, anziché vivere di lusso e privilegi al sicuro tra le mura claustrali. Dobbiamo ricordare che le monache provenivano tutte da famiglie aristocratiche e che vivevano dentro i monasteri come delle regine, con servitù e privilegi. Ma, nonostante l'opera di Teresa, la monacazione forzata continua a dare come prodotto amori clandestini tra monache e monaci, poiché la forza della natura sempre prevalse sulle restrizioni umane e nel 1600 ne abbiamo testimonianze di prima mano attraverso gli scritti di denuncia delle monacate a forza Arcangela Trabotti in Venezia e Juana de la Cruz in Città del Messico, di cui la nostra scuola si è occupata. Ne lasciamo i link in descrizione. E se è vero che Juana, diversamente da Arcangela, scelse di entrare in convento, lo fece non per vocazione, ma per poter studiare, libera dalla schiavitù domestica a cui il matrimonio l'avrebbe obbligata. Dunque si può dire per traslato che anche lei si monacò a forza. Di Arcangela Tarabotti ha scritto una straziante, empatica testimonianza la drammaturga Antonella Barina, che nel suo racconto Tre in una, disponibile sul nostro canale al link in descrizione, ne racconta in prima persona la sofferenza della monacazione forzata e la crudeltà della vita conventuale per le fanciulle senza vocazione. E arriviamo all'Ottocento, quando un'ennesima toccante testimonianza di tale crudele pratica e dell'effetto che aveva sul corpo e sulla mente delle monache forzate ci viene dalla principessa Enrichetta Caracciolo di Forino, che per volere della madre subì la stessa sorte, contro cui però l'indomita fanciulla lottò per più di una decade finché non riuscì a liberarsi dal velo. Nella testimonianza di Enrichetta, della cui attività politica abbiamo parlato nel nostro docuvideo sulle matriote risorgimentali, appare una madre anaffettiva e quasi sadica che negò senza motivo alla figlia il matrimonio, pur avendolo permesso alle sue tre sorelle, e la rinchiuse in convento promettendole che si sarebbe trattato solo di 2 mesi e che poi sarebbe tornata a casa, mentre in realtà brigò per lasciarla per sempre nel monastero napoletano di San Gregorio Armeno. O forse vien da pensare che la madre, essendo rimasta vedova, usò per rimaritarsi il denaro destinato alla dote della figlia. Sta di fatto che alle suppliche della giovinetta rispose con freddezza implacabile, ricordandole che per legge doveva obbedire e restando irremovibile di fronte ai patimenti di Enrichetta. Dunque, se nel caso di Arcangela fu il padre a tradirla e rinchiuderla, nel caso di Enrichetta fu la madre, anche se di fronte alle sofferenze della figlia, accessi nervosi, emicranie, spasimi, come descrisse nella sua autobiografia, io diveniva sempre più pallida e smilza, le gote mie si affossavano, gli occhi si spengevano, i capelli mi cadevano a ciocche. La madre, dicevamo, dopo anni, si pentì e l'aiutò ad uscire. Il tutto viene denunciato nel diario I misteri del chiostro napoletano, che all'epoca fu un bestseller con diverse ristampe e traduzioni in 6 lingue, in cui Enrichetta svela, nei dettagli, le gelosie e le follie delle monache, le quali venivano sedotte dai loro confessori e convinte con l'inganno che per una monaca accoppiarsi col suo confessore fosse il modo per donarsi a Dio. Tanto che quelle che si rifiutavano, come Enrichetta, divenivano oggetto di astiose rivalse e dispetti. Pensando alla esuberante passione erotica che la lirica mistica, in particolare di Matilde di Magdeburgo, esprimeva, possiamo ben comprendere che queste povere donne avevano degli istinti fisici affatto normali e sani, che la morbosità della situazione corrompeva e trasformava in situazioni deliranti che non di rado sfociavano nella pazzia e nel suicidio di monache disperate o gravide. La mancanza di vocazione poi conduceva i costumi a un tal punto di corruzione da spingerle addirittura a rubare sia arredi sacri che le proprietà personali delle loro consorelle. E se alcune, forse caratterialmente e moralmente più forti, come Arcangela, Juana ed Enrichetta, riuscirono a non farsi trascinare e anzi cercarono di porre un freno, la maggior parte cedevano, o per istinto personale, o perché trascinate dalle consorelle nelle quali la sensualità veniva esacerbata dalla evidente illegittimità della situazione, trasformandosi in cattiveria, sadismo e vendetta. Sembra davvero paradossale che le autorità ecclesiastiche tollerassero nei monasteri il malcostume di cui erano al corrente. Si sapeva, ma non si diceva, poiché lo scandalo avrebbe coinvolto tutti e tutte, dal momento che quasi nessuno ne era esente. Viceversa, come nel caso di Guglielmo e della sua chiesa, che si era costituita in Milano nel 1200, la chiesa guglielmita, appunto, in forma autonoma, con una donna, Maifreda da Pierovano, come papa, fu montato un caso inesistente di depravazione sessuale e orgie rituali, sicuramente false, solamente per screditare l'immagine delle due coraggiose donne che infatti finirono tra le maglie dell'Inquisizione. Dunque, gli scandali veri venivano taciuti e tollerati, quelli falsi creati ed alimentati ad hoc per togliere di mezzo pericolose congregazioni di libere pensatrici e pensatori. La coltissima principessa Enrichetta Caracciolo di Forino, come abbiamo detto, riuscì ad uscire dal chiostro battendosi con grande coraggio, scrive Francesca di Caprio. Enrichetta si guadagna la sua libertà. con una lotta ostinata, coraggiosa, senza cedimenti, che apre prospettive in grado di modificare la società futura, mostrando come la cultura e la scrittura possano diventare un'efficace arma di propaganda. All'epoca in cui visse Enrichetta, che nacque a Napoli nel 1821, era lo stesso codice civile che consentiva ai genitori di obbligare le figlie a prendere i voti, cosa che veniva praticata puntualmente e senza scrupoli. Ma Enrichetta continuò per anni a presentare istanze al Papa onde ottenere lo scioglimento dei voti o almeno una dispensa temporanea per motivi di salute, richiesta che venne sempre costantemente disattesa. Ella fu profondamente conscia dei grandi cambiamenti sociali e politici in atto, cambiamenti su cui si teneva informata grazie ai giornali che la sorella Giulia le faceva arrivare in convento. La sua simpatia per la rivoluzione, oltre al fatto che rifiutava di sottomettersi al dominio sessuale di un confessore, la rendeva bersaglio di aspre critiche e ostilità da parte delle altre suore. Sappiamo che in convento leggeva giornali dell'opposizione procurandosi la fama di rivoluzionaria, eretica, aggregata a segrete società. Finché nel 1848, a 27 anni finalmente, dopo 9 anni di reclusione in San Gregorio Armeno, il Papa le concesse di abbandonare il monastero, lasciando però al suddetto tutti i suoi beni. Ottenne di trasferirsi in un'altra struttura semireligiosa, il Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli, destinato ad accogliere fanciulle di agiata condizione sociale, tra i 12 e i 25 anni, sane e alfabetizzate, che pur non essendo religiose e non facendo voto di clausura perpetua, conducevano una vita semimonastica. Enrichetta aveva il permesso di uscire durante il giorno, ma con obbligo di rientrare la sera. Poiché tuttavia il vescovo le negò la diaria che le spettava, non potendo più provvedere a se stesse e alla sua conversa, che le faceva da domestica, fuggì per vivere da donna libera e mantenersi col suo lavoro. Ma la polizia borbonica aveva iniziato a sospettarla, infatti 2 anni dopo venne nuovamente imprigionata per intromissione del cardinale di stanza a Napoli, Riario Sforza. L'aspetteranno 3 anni di isolamento durissimo in una buia e sudicia cella nel ritiro di Mondragone, a 50 km da Napoli, dove le fu negato il permesso di uscire, di leggere, scrivere, ricevere poste e parlare con chiunque, in una situazione molto simile a quella raccontata da Juana de la Cruz quando venne punita col toglierle proprio il diritto di leggere e di scrivere tutto ciò che non fossero i libri sacri. Il ritiro di Santa Maria delle Grazie di Mondragone era nato per ospitare un ristretto numero di donne di buona famiglia in difficoltà economiche o vedove che volevano vivere insieme in stile monastico, appartate, ma senza prendere i voti. Le donne di età non minore di 20 anni vestivano l'abito gesuitico e non erano obbligate a versare una dote, ma solo un assegno mensile. Tuttavia, nei secoli, l'istituzione era a tal punto scaduta da essere divenuta più un luogo di punizione che di ritiro spirituale. Per 3 anni e 4 mesi, durante i quali tentò anche di suicidarsi, rifiutando cibo e bevanda, Enrichetta rimase rinchiusa nella sua cella senza mai uscirne. Per 3 anni e 4 mesi, senza mai uscirne, per ordine del cardinale Riario Sforza, al quale veniva fatto puntuale rapporto dalla badessa. Nello scrivere e nel leggere di questo periodo nero della sua vita è impossibile non pensare a Rosa Luxemburg e Juana di Castiglia, 2 donne che vissero la maggior parte della loro vita da recluse per motivi politici. Rosa, nella solitudine del carcere, continuò a scrivere, vincendo la solitudine con l'osservare gli insetti suoi compagni di cella. Noto dalle sue lettere l'aver salvato un bombo dal congelamento mettendolo su un pezzetto di ovatta. Come Rosa, anche Enrichetta racconterà poi nelle sue memorie, Misteri di un chiostro napoletano, che di seguito proponiamo, nelle ore d'ozio, e quante non ne dovetti passare in più di 3 anni d'assoluto sequestramento, materia di grata distrazione mi somministrarono gli insetti, soli viventi compagni del mio deserto. Quante ore non passai assorta all'isocrono rosicchiare del tarlo nel fracido tavolato delle porte del soffitto. Quante volte non tesi lungamente l'orecchio ai gorgheggi di un canarino, la cui prigione, per quanto facessi, non m'era dato di discernere. In tempo d'estate ed autunno, una porzione del mio scarso pane era religiosamente riservata alle formiche, adescate dalla mia ospitalità, e si affluivano in differenti repubbliche e sottocapi differenti nella mia stanza. Ne prendevano imperturbato possesso, si aprivano ingressi e uscite a piacimento, montavano in lunga schiera su per le pareti o in diverse tribù, affollandosi a me dintorno, facevano a gara l'una con l'altra per la briciola che io porgeva loro. Juana o Giovanna di Castiglia, detta e conosciuta dalla storia patriarcale come Giovanna la Pazza, invece, lei pure reclusa dalla madre Isabella, che non voleva trasmetterle la corona di Spagna, fu privata dei figli e rinchiusa in un monastero, dove tentò di suicidarsi proprio come la stessa Enrichetta. C'è da chiedersi cui prodest, a chi giova questo accanimento contro alcune donne che sembrano venire al mondo solo per essere immolate alla crudeltà del sistema. Ma torniamo ad Enrichetta. Finalmente, dopo anni di torture psicologiche, la cui lettura risulta penosissima, ormai sull'orlo della demenza, fu definitivamente rilasciata a seguito di pesantissimi referti medici. Ma una volta fuori, si riprese velocemente. Tornò clandestinamente a Napoli, dove finalmente libera, dopo 13 anni, entrò a tutti gli effetti nelle reti cospirative. Le spie della polizia borbonica, soprattutto preti e monaci, la pedinavano cercando pretesti per arrestarla. Spie al buco della chiave, dell'uscio di casa, spie per le scale, spie nel cortile, nei terrazzi, insomma, un'invasione di spie in tutti i luoghi, racconta. Per sfuggire all'arresto, cambiò 18 abitazioni in 6 anni e racconta nel suo memoriale, cambiò 32 domestiche poiché anche costoro venivano fermate e interrogate dalle spie della polizia riguardo a chi lei frequentasse e a chi scrivesse. Entrò, insieme alla sorella Giulia, anch'ella attivista, nella sorellanza segreta delle donne che militavano di nascosto per la causa risorgimentale. Citiamo dall'articolo Carbonare, no, Giardiniere su Golem Informazione. Queste donne rivendicano un ruolo nella vita politica in quanto madri, sorelle, mogli, figlie di patrioti. Non rinnegano il loro senso della famiglia, il loro essere madri, ma compiono una vera rivoluzione tra le pareti domestiche. Organizzano rivolte, partecipano in prima persona ai combattimenti, soccorrono i feriti in veste di croce rossine, compiono gesti e azioni simboliche come vestirsi a lutto o disertare i teatri a seguito di rappresaglie di patrioti al fine di indebolire l'autorità della legge. Alcune sono croniste d'assalto, raccontano gli scontri, i sentimenti, le speranze, escogitano travestimenti per gli esuli, raccolgono fondi per la causa, nascondono le armi. Il giornalismo diventa il mezzo con cui le donne esprimono le prime idee di emancipazione e strutturano le loro richieste. Finiti i combattimenti, le patriote si trasformano in educatrici. A loro adesso spetta il compito di educare una nuova generazione di giovani nel rispetto, nella difesa e nel rafforzamento delle recenti conquiste del Risorgimento. L'istruzione diventa un altro importante strumento di emancipazione femminile. Purtroppo però l'istituzione del nuovo Parlamento, cristallizzato in istituzioni e figure maschili, finisce per seppellire le vittorie e gli slanci delle eroine risorgimentali sotto il peso dell'indifferenza e della resistenza al cambiamento. Tornando a Enrichetta, nel 1861, a 30 anni, finalmente libera, sposò il principe Giovanni Greuter, che per 24 anni fu suo inseparabile compagno nella lotta per la libertà. Così termina il suo memoriale. Ed eccomi finalmente felice, accanto ad un marito che mi adora, a cui rispondo con uguale amore. Divenne corrispondente per alcuni giornali e scrisse diverse opere, tra cui un proclama della donna italiana, per invitare le donne a sostenere la causa nazionale. Fu attivista per i diritti civili e politici delle donne. A 39 anni si dedicò alla stesura delle memorie del convento in forma di denuncia, appunto i misteri di un chiostro napoletano. Lo scandalo fu enorme e Enrichetta fu scomunicata per aver osato raccontare la verità su ciò che succedeva nei monasteri. L'editore definì il libro opera di donna che ha preso quasi le proporzioni di un avvenimento politico. quasi quarantenne, aderì al comitato napoletano dell'Anticoncilio del Libero Pensiero per l'Emancipazione delle Donne Italiane, col fine di sostenere il disegno di legge per la parità di diritti civili e politici della donna e dell'uomo. Purtroppo ebbe modo di sperimentare con mano il fallimento degli ideali garibaldini, poiché le persecuzioni, il malgoverno e il furto che l'Italia dei Savoia operò sul popolo non furono da meno degli orribili misfatti e usurpazioni commesse dai Borboni che Garibaldi aveva cacciato dall'Italia. Una storia già vista in Francia, con Napoleone e il fallimento della rivoluzione trasformatasi prima nel terrore, poi in una nuova monarchia. Il destino di tutte le rivoluzioni, di trasformarsi esattamente nello stesso regime repressivo che avevano combattuto. Dunque, come tante altre donne rivoluzionarie, anche la principessa Enrichetta Caracciolo di Forino combatté per vedere i suoi ideali infranti. Malgrado il suo instancabile impegno e il coraggio nel mantenersi coerente e fedele ai suoi ideali, nonostante le difficoltà e la prigionia, lei, che aveva creduto ciecamente nelle possibilità femminili, non ebbe nessun riconoscimento ufficiale dal governo che aveva servito, al pari di altre eroine quali Harriet Tubman, generale antischiavista nella guerra di secessione americana, o Lady Emma Hamilton, che salvò letteralmente l'ammiraglio Nelson e la flotta inglese grazie al suo intervento presso la regina di Napoli, Maria Carolina. I beni di Enrichetta rimasero sotto sequestro e lei, ormai vedova, visse i suoi ultimi anni in solitudine e indigenza e lasciò il corpo tantenne nel 1901, come abbiamo visto succedere ad altre grandi donne quali Gertrude Bell o Sibilla Aleramo, ignorata dalla storia. Nessun giornale riportò il suo necrologio. Del suo libro, Misteri del chiostro napoletano, leggiamo i capitoli centrali, interessantissimi documenti storici sulla vita nel monastero affinché, attraverso testimonianze di prima mano, si conosca l'abuso operato per secoli nei confronti di fanciulle che non potevano difendersi né fuggire. La scuola delle donne vi propone l'ascolto di alcuni capitoli da Misteri del chiostro napoletano di Enrichetta Caracciolo di Forino, copia liberamente disponibile online in liberliber.it. Da Devana, buon ascolto.